E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci di nuovo qui, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, come ogni sabato dalle 14 alle 15 fate lavorare strenuamente i vostri neuroni e decidete qual è la notizia della settimana. Il numero verde da subito è accessibile, 800 24 00 24, per fare un po' come sempre il punto della situazione. Quale delle tante notizie che si sono avvicendate in questa settimana vi ha colpito di più? Quale volete commentare, naturalmente sempre con libertà? Io direi, non perdiamoci mai il nostro rito, di dirci ogni volta anche cos'è che ci confermiamo. Conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Ebbene, questa volta ce lo conferma l'Istat con il suo paniere, il paniere, il cestino praticamente, no? Che raccoglie tutti i prodotti su cui si misura il caro vita. Ebbene, esce dal paniere il noleggio di DVD, ma è roba superata ormai, cose che insomma facciamo da illore tempore, come si dice illo tempore. E poi invece che cosa entra? Entra l'iPad. Naturalmente con la tecnologia andiamo avanti, l'iPad. Avete visto tra l'altro che Murdoch ha lanciato il primo quotidiano su iPad, questa è una delle novità di questa settimana. Poi entra anche il kebab, iPad kebab, no, sembra un po' una cosa quasi messa lì apposta, e anche il salmone affumicato. Evidentemente c'è un gran consumo, ormai è diventata una roba che quando si va al supermercato, nel cestino, nel paniere dell'Istat si mette anche il salmone affumicato. Questo ci dice appunto come cambiano i nostri consumi, quindi come cambiamo noi, le nostre esigenze, le nostre abitudini, i nostri gusti. Credo che, e poi lo vorrei chiedere all'opinionista di oggi, abbiano lasciato fuori una cosa importante che riguarda il paniere dell'Istat, ma poi vedremo. E invece volevo anche comunicarvi, a proposito di pubblicità, ogni volta che c'è qualche pubblicità così dà un po' il segno dei tempi, oppure mi incuriosisce, ve lo dico. Per esempio, non so se avete notato, a parte adesso con i canali digitali, no? È moltiplicata l'offerta dei canali televisivi, anche se io devo dire che si è moltiplicato le televendite. Io ogni canale, tutta una televendita di qualsiasi cosa, noccioline, banane, televisori usati, di tutto. E quello che mi stupisce sempre è che, a proposito di materassi, sempre queste ragazze che accarezzano questi materassi con un affetto, con una voluttà, con una passione. Gli uomini presentano le caratteristiche di questi materassi e queste donne che si innamorano dei materassi. Perché si innamorano? Che cosa hanno? Io ho provato a guardare con una certa voluttà anche il mio materasso, sinceramente non mi è venuto ad accarezzarlo così affettuosamente, così passionalmente, forse non subisco il fascino del materasso, insomma. Comunque, al di là di questo, vi avviso anche che da due giorni, a proposito di come cambiano anche le abitudini italiane, l'anno del coniglio, naturalmente Capodanno cinese, che si è festeggiato in tante città d'Italia. La più bella festa è stata a Napoli, già bellissima Napoli, immaginate poi con questa festa. E a proposito quindi di coniglio, l'anno del coniglio, io mi sentirei proprio di fargli un omaggio, al coniglio. Che è questo, un coniglio? C'è proprio un coyote che è un coniglio. È il coniglio moderno? Neanche i conigli sono più quelli di una volta. Bando alle ciance, adesso bisogna assolutamente che vi presenti, signore e signori, il mio opinionista estemporaneo che ci accompagnerà tutta l'ora per, con il suo spessore, con la sua levatura, aiutarci a commentare e interpretare i fatti della settimana. Oggi c'è, signore e signori, Giordano Bruno Guerri. Eccolo lì, Giordano. Auguri, sono ben sentito. Senti, ma poi sei in macchina con tuo figlio, poverino, l'hai lasciato tranquillo a fare le sue cose più divertenti, che è vero, a sentire le nostre cose. Io sono in macchina al Pincio. Sì, al Pincio? Davanti a statue con le teste mosse abbastanza desolanti. Il bambino è al teatrino dei piccoli a festeggiare il compleanno di un amico. Mentre noi parleremo... Un paesaggio molto misto di extracomunitari che evidentemente non hanno un posto migliore per prendere un po' di sole e romani che invece seguono la loro tradizione. E tu che invece sei qui a fare l'opinionista estemporaneo, Giordano Bruno Guerri, giornalista, scrittore, storico, autore, conduttore di trasmissioni TV, insegna storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma, opinionista del giornale, ha scritto recentemente per Mondadori Il sangue del sud, antistoria del risorgimento e del brigantaccio. A questo proposito, caro Giordano, ne avevamo parlato già brevemente tempo fa, mi riporto, visto che si parla di Unità d'Italia eccetera, al uno dei temi di questa settimana caldo è stato il federalismo, no? La bicameralina, questo organo diciamo parlamentare che era stato creato bipartisan per dare una valutazione del federalismo, ha dato giorni fa parere pari, diciamo, 15 su 15, 15 sì, 15 no, quindi quando il regolamento funziona così, quando c'è parità in realtà la proposta, la legge viene respinta. Però che cosa hanno fatto Lega, Bossi, la maggioranza di governo? Hanno indetto immediatamente giovedì sera, se non sbaglio, il Consiglio dei Ministri e hanno varato il decreto legislativo sul federalismo. Però l'opposizione si è opposta, essendo opposizione, cioè, si è opposta dicendo un colpo di mano. Lo stesso presidente Napolitano ha detto no, questa cosa è irricevibile, deve passare dalle Camere, una cosa così delicata, importante, non può essere così decisa così d'imperio. Che ne pensi tu del federalismo? Dunque, del federalismo penso certamente bene, perché il paese è ormai pronto per essere governato in un modo più duttile e affidato alle singole città, alle singole regioni che hanno ognuna ha le proprie necessità, le proprie esigenze e i propri strumenti per governare al meglio. Del fatto che sia passato in questo modo, in questi giorni, anche se adesso il Quirinale l'ha fermato e quindi dovrà fare il suo iter parlamentare, cosa ne pensi? Purtroppo io credo che sia una manovra politica che con il federalismo non ha niente a che vedere. Cioè tutti i partiti erano ormai d'accordo sul federalismo, a sinistra quanto a destra. Sì, evidentemente si cerca di far irritare Bossi dimostrandogli che finché è alleato con Berlusconi il suo maggiore obiettivo non potrà passare, verrà intralciato in ogni modo, e così è stato. Bossi l'ha capito e adesso stanno tentando una manovra, devo dire piuttosto goffa, per far approvare ugualmente il federalismo. Bisognerà certamente ripassare per le Camere, perché una riforma così importante, forse la più importante della riforma degli ultimi decenni, come ha detto Tremonti, non può essere varata così all'arrembaggio, deve avere una formalizzazione molto solenne e importante. Ma secondo te, Giordano Bruno Guerri, è vero, come paventano alcuni, che il federalismo in realtà porterà più tasse, o è soltanto così un modo strumentale per dire evitiamo il federalismo? Che ne pensi? Da quel che capisco non porterà più tasse, suddividerà le tasse in un modo diverso, cioè attribuirà maggiori entrate ai comuni, dovrebbe diminuire le tasse nazionali, e quindi è impossibile fare i conti naturalmente prima che le cose avvengano, però dovremmo trovarci in una situazione di pareggio, con in più il vantaggio che il denaro delle tasse dovrebbe essere gestito direttamente dai comuni, che al momento, dopo la perdita dell'ICI, sono veramente con l'acqua alla gola. Io mi trovo a collaborare con alcune amministrazioni comunali che non sanno veramente come dove andare a prendere i finanziamenti dopo giorno, e in genere campano nel modo più feroce, imponendo quella tassa indiretta e crudele che sono le multe. Tutti sappiamo che le multe per divieto di sosta in tutta Italia sono perseguitate, decuplicate, eccetera. Ora l'avete capito. 800 24 00 24. Intanto, questo per le vostre notizie della settimana, vorrei dare uno sguardo anche alle notizie sulla settimana che i tanti ascoltatori hanno pubblicato sulla pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. Lì potete andare anche a risentire la trasmissione, lì potete andare a partecipare alla pagina Facebook. Dicevo, Stefano Di Vico Pisano, a proposito di qual è la notizia della settimana secondo ascoltatori e lettori di Facebook, ha detto che condivide le preoccupazioni di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, e commenta: secondo me, in occasione del 150° anno dell'Unità d'Italia, è giusto festeggiare con astensione dal lavoro e riflettere sui valori che ci uniscono. L'importante è che il giorno festivo non diventi un pretesto per fare ponti e mettere in difficoltà le grandi aziende. Il punto è questo, che è stato sancito che il 17 marzo quest'anno sarà il giorno dedicato all'Unità d'Italia, no? Sapete che c'è il 150esimo e ieri la presidente di Confindustria Marcegaglia ha detto no, infatti Stefano ha capito in parte questa cosa, nel senso che Emma Marcegaglia ha detto no, non lo facciamo proprio, cioè festeggiamolo ma andiamo lo stesso al lavoro perché sennò perdiamo in produttività, invece Stefano ha capito solo che la preoccupazione di Emma Marcegaglia fosse quella del ponte, visto che avverrà di giovedì, uno si prende il venerdì per chi non lavora sabato e fa il ponte. Questo comunque è un tema, voi ritenete che sia giusto fare festa il 17 marzo per l'Unità d'Italia oppure ci perdiamo in produttività come paese? Poi Tatiana da Milano scrive che vuole ricordare la manifestazione delle donne, che ci sarà adesso il 13 febbraio, che si intitola Se non ora, quando? No? Sapete, l'appello, la raccolta di firme contro l'immagine, i modelli, anziché nuovi, vecchi modelli di donne, di rapporti tra i sessi, che secondo questa manifestazione enfatizza il comportamento del Presidente del Consiglio. In Italia la maggioranza delle donne, scrive Tatiana, lavora fuori o dentro casa, crea ricchezza, cerca un lavoro, una su due non ci riesce, studia, si sacrifica per affermarsi. Poi Adriano di Venezia scrive sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni: tra le altre mi ha colpito molto il massacro dei cani husky, motivazione non servivano più, in un paese come il Canada, civile, evoluto, ma è anche là che si massacrano le foche, infatti è una cosa orrenda che forse è un po' diminuita negli ultimi anni ma prosegue, e dice non metterò mai più piede in Canada, può essere un buon motivo per non andare in Canada. E poi Robert di Porto Garibaldi in Emilia Romagna dice, fa del sarcasmo sulle ore di apprensione, scrive che sta vivendo il nostro Latin lover del Consiglio per le sorti dello zio di Ruby. Poi le notizie sono tante, naturalmente i rivolgimenti in Egitto, la Camera che ha rimandato gli atti dell'inchiesta sul caso Ruby alla Procura di Milano, il federalismo di cui abbiamo un po' accennato, tante altre. Secondo te, Giordano Bruno Guerri, la notizia della settimana, quella almeno che tu vorresti commentare per prima, qual è? Beh, la notizia più importante indubbiamente è quello che sta avvenendo in Egitto, al di là delle battute sulla zio di Ruby. L'Egitto è un punto fondamentale per gli equilibri del Mediterraneo e del mondo, essendo uno dei pochissimi paesi arabi e musulmani che non osteggia Israele, con il quale ha trovato un accordo. Se cadesse quel governo, e quel governo che peraltro non è molto lodabile, quindi non sarebbe del tutto un male che dopo 30 anni Mubarak cada, ma venisse sostituito con un governo integralista o filo integralista, questo è il rischio che molti paventano, anti-israeliano, sarebbe un problema per tutti noi, per tutto il mondo e soprattutto per noi del bacino mediterraneo. Quindi è a turismo a parte, perché poi questo crea anche dei problemi alle nostre aziende che hanno impiantato villaggi in Egitto, ai 15.000 italiani che si trovano lì. A parte questo, è veramente una crisi internazionale grave. Che può avere effetto domino, come si è detto in questi giorni. Prima di aggiornare chi sta viaggiando, intanto saluto Beppe da Verona, che ha chiamato all'800240024. Mi dici solo il titolo del tuo tema, poi ne parliamo dopo, che qui incombe il traffico, Beppe. Ah, va bene. Niente, il federalismo non si è fatto, ma la Lega resta lì. Bene, allora, un attimo, tu rimani lì mentre la Lega resta là, e invece lancio uno spunto sia a Giordano Bruno Guerri che agli ascoltatori. Il Riformista di oggi titola: che altro deve succedere per votare? Nel senso che evidentemente spinge il Riformista verso le elezioni anticipate, anche se invece sul Corriere.it prima notizia oggi è Berlusconi che dice: il voto danno per il paese, via rimpasto un posto e anche Pestoraci. Quindi potete anche riflettere per esempio sul fatto che 17 marzo preferite che ci si astenga dal lavorare perché è festa dell'Unità d'Italia, oppure la celebriamo ma andiamo a lavorare. E poi, siete o no per le elezioni anticipate? Allora, questa è una ricerca scientifica serissima, Giordano Bruno Guerri, una ricerca della Virginia Tech negli Stati Uniti. Sì. Che ha scoperto che lo starnuto fa viaggiare il virus dello starnuto, le goccioline, il doppio di un colpo di tosse, e dentro un pullman pensa che rimane per ore e ore e ore questa nebbiolina di virus, e può contaminare un sacco di persone. Ma la cosa che più mi ha sconvolto è che hanno scoperto che uno starnuto va a 160 km l'ora. Ora io mi chiedo, ho pensato, se mentre guido, come spesso mi capita in autostrada, mi viene da starnutire, ci fosse un autovelux lì nelle vicinanze, secondo te viene percepito questo starnuto e magari mi fanno una multa perché ho starnutito ma sono andato a 160? No, dimmi, perché a proposito di multe che tu dicevi prima mi viene il dubbio, secondo te? non ci sono più i mezzi starnuti, ormai vanno 160 all'ora. Sono sempre più pompati. Io ho letto anni fa una notizia curiosa, che sì, in Gran Bretagna lo starnuto viene considerato uno dei principali motivi di incidente, perché rende incontrollabile l'automobile. E quindi chi avesse avuto un incidente e dimostrasse che era avvenuto durante uno starnuto veniva... Ma lì come... Cosa trovo? Le goccioline del DNA, le goccioline sul cruscotto? Come, cioè, allora possiamo dirlo tutti. Quello che veramente preoccupa è che con questa ridondanza di informazioni, di pericoli virali, di contaminazioni, eccetera, finiremo per girare con lo scafandro. Vero, ci guardiamo tutti con sospetto, quello tossito, quello stornuzzo, quello si è grattato il naso, allora tengo le distanze. All'untone, all'untone. Senti, allora sentiamo il nostro Beppe che ha chiamato, dicevamo, da Verona. Beppe, quindi dicevi il federalismo non si fa, per il momento in realtà, tu hai detto. Quindi, Lo so, però sì, sai cos'è che ti fa cascare le braccia? Il fatto che la sedia sotto il fondoschiena sta sempre bene a tutti, cioè a un certo punto vengono fuori i finiani che si mettono contro il resto del governo. Se avessero fatto tutto fino in fondo il governo sarebbe già caduto. Adesso è la volta della Lega, che fino a un certo punto è stata coerente, ha insistito, ha dato fiducia, ci ha creduto e bim bum bam. Quando finalmente, concretamente, gli viene quello che gli spetta, perché queste erano le condizioni che aveva posto per entrare a far parte del governo, gli dicono di no, pareggio. Scusa, a sto punto, intanto siete credibili, siete in crescita, ritirate la vostra compagine al governo, il governo cade, si va alle votazioni e fine della fiera, cioè, ma che in questo... Beppe, tu sei un leghista, quindi quello che... Ma io sono di sinistra. Il discorso è che dalla mia sinistra ammiravo la Lega per alcune strategie che aveva adottato, per alcune forme di accondiscendenza che erano veramente abbastanza collocabili nella logica del discorso politico. Alla fin fine, cioè alla fine fammi un esempio, Beppe, di una cosa che ti convinceva. Cioè, le alleanze per che cosa si fanno? Si fanno per avere la forza, sì, la forza, però materia, detto la forza numerica. Però mi hai detto, no? Pur essendo di sinistra tu, Beppe, hai detto c'erano alcuni aspetti della Lega che mi interessavano. La Lega ha dato il suo numero di eletti per allearsi con Berlusconi e per poter governare. Siccome c'era stato un Ma ed era questo che ammiravi? È questo che ammiravi? Beppe, no, io ammiravo il fatto che loro avevano posto delle condizioni e che stavano pazientando fino al momento in cui queste condizioni non sarebbero state realizzate. Il problema è questo, che Berlusconi, no, in qualche maniera li ha presi per i fondelli oramai da 2 anni. Finalmente, quando ha visto che l'acqua gli è arrivata alla gola, ha detto, adesso teniamoli tranquilli e vediamo un po' questa storia del federalismo. La mandiamo in bicamerale. In bicamerale non se ne fa niente e si va al Consiglio dei Ministri. Lì non si può fare. Ma insomma, allora ci state prendendo, cioè li state prendendo per i fondelli. Allora io sì, sono di sinistra, ammiro la loro costanza, la fedeltà, l'impegno preso. Dici, ma fossi nella Lega, ma adesso che me ne siamo andrei perfettamente traditi, basta, andiamo via. Tanto comunque, per la coerenza con la quale finora hanno fatto parte del governo e non solo, molto probabilmente avranno di nuovo il consenso di chi li ha votati finora e ancora di più, e a quel punto sullo scacchiere parlamentare potranno decidere con chi allearsi per... Ho capito, Beppe, è chiaro. Capisci? Senti, stavo guardando, tra l'altro, che c'è oggi la manifestazione, tu parlavi di sinistra, della sinistra sul palco a Milano per dire dimettiti al Cavaliere, questa grande manifestazione al Palace Sharp, inizierà la diretta sul Corriere.it, annuncia alle 15, all'Idea di Libertà e Giustizia, si chiama così la manifestazione, ci saranno anche Umberto Eco, Saviano, Scalfaro, Camusso, eccetera, eccetera. Dimmi solo brevemente, Beppe, chi ci vede... Cioè, ci vedi bene Bersani, allora, alla leadership della sinistra oppure no? Dimmi. Allora, ascolta, io come sinistroide, va bene, mi sento orfano. Orfano. Va bene? Perché io faccio parte di una sinistra orfana, dove non c'è una leadership e dove continuiamo a farci ancora le a radio non si può dire, vediamo un'alternativa, dove facciamoci del male ancora... vuol dire. Cioè, vuol dire facciamoci del male, questo volevi dire? No, le seghe mentali su come, quando mentali. E dove denunciare quello che fa il... Io mi ricordo l'altro in una delle trasmissioni televisive dove si parla appunto di queste cose, no? La cosa lì, la... Chi è? Ah, è di sinistra anche lei. Annunziata? No, la Cicciottella. Cicciottella? Cicciottella, Cicciottella. Quella che Berlusconi gli ha detto sei bella, ma... La Bindi? No, non le ha detto che sei bella, ecco perché non mi veniva in mente chi fosse. Pensavo una bella. La Rossi Bindi a un certo punto detto che è più intelligente che bella. Un giornalista che gli ha detto cosa proponete? Non avete ancora individuato un leader, cosa proponete? Questa è la grande tragedia della sinistra. Ho capito, Beppe, quindi Beppe è orfano. Sentiamo gli altri ascoltatori all'800240024, mentre vedo che Fini e Barbareschi, due futuristi, hanno litigato. Sapete che Barbareschi in questi giorni nel voto per decidere se rimandare alla Procura di Milano, come poi è stato da parte della Camera, gli atti sull'inchiesta del caso Ruby, Barbareschi si è astenuto, però poi ha detto che invece non aveva funzionato il suo tasto. A volte si incastrano questi tasti, insomma, molti non gli hanno creduto. Quindi lite con lancio di penne tra Fini e Barbareschi, non è scritto il marchio delle penne, comunque insomma hanno litigato. E adesso c'è Maria da Verona all'800240024, al quale continua a rispondere Giorgio De Luca. Maria da Verona. Ciao Roberta. Ciao Maria. Ascolto sempre. Grazie Maria, fa bene alla salute, sì. Dimmi. Per quanto riguarda la festività dell'Unità d'Italia, 17 marzo, sì. D'accordo, sono d'accordo, condivido però quello che dice la Mazzagatta. Mm. Facciamo festa, ma non perdiamo il lavoro, che già siamo messi male in Italia. Questa è la mia idea. Maria, tu lavori fuori casa? Sì, in casa lavoro. Io ho un'attività in proprio. Mm. E quindi dici da piccola imprenditrice. Sono artigiana, perché sai, artigiana, gli artigiani non hanno mai finito. Però anche per educazione, cioè, diamo un'educazione a questi ragazzi, a questa gioventù che viene su, che cercano lavoro, basta fare festa. Facciamo le feste dovute, ma non le mettiamone ancora. Cerchiamo di abbassare invece il costo del lavoro lavorando un po' di più. Grazie Maria. Io direi a questo punto, sapete che è l'unica trasmissione questa, oltre ad essere democratica, che è l'unica, dicevo, che ha un collegamento anche extraplanetario. Sentiamo anche le opinioni da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Cosa ho osservato dunque quassù da Marte durante questa settimana col mio telescopio perennemente puntato sul globo terracqueo? Beh, sempre più una grande confusione. Intanto sembra che in Egitto il presidente Mubarak se la stia passando piuttosto maluccio, tanto che non ha più nemmeno il tempo di preoccuparsi di cosa combina suo nipote. Poi dicono che i ragazzi vengono su male, ma... E comunque i grattacapi ce li hanno anche gli altri, naturalmente. La disoccupazione, per esempio, è una brutta bestia. Quando poi è proprio una bestia a rimanere disoccupata, allora è un vero guaio. È il caso del centinaio di cani husky impiegati come traino da slitta durante i giochi invernali di Vancouver in Canada l'anno scorso. Ebbene, essendo ora rimasti disoccupati, finiti i giochi invernali, che farne di tutti questi bei cani un po' costosetti? Le società che li avevano ingaggiati non ci hanno pensato due volte, li hanno affidati a un operaio, gli hanno dato una pallottola per ogni cane, non più di una perché insomma il gioco non vale la spesa, e gli hanno detto falli fuori. Lui ci si è messo d'impegno, solo che non essendo abituato a sparare, una pallottola per ogni cane non gli è bastata, e quindi li ha massacrati a uno per uno con un coltello. E poi si è talmente impressionato dell'orrendo spettacolo che ha chiesto un indennizzo per lo stress subito. Buffo, no? Quelli volevano risparmiare, lui poi ha chiesto i danni, bizzarri però gli esseri umani, poi i marziani saremmo noi qui su Marte. Ma non pensiate, via, di umanità ce n'è come sulla Terra. Il povero capomafia corleonese, boss dei boss Bernardo Provenzano, arrestato nell'aprile del 2006 dopo soli 43 anni di latitanza, chiede di essere scarcerato perché è malato. Insomma, quando si dice non tutto il male viene per nuocere, a volte viene anche per poter uscire dal carcere. Al mondo, insomma, non ci si annoia mai, anche se a volte, per carità, può accadere, certo, come per esempio succede a qualche parlamentare. Prendete il caso del deputato del PDL Simeone Di Cagno a Brescia, si chiama Brescia ma è l'ex sindaco di Bari, che durante il voto sulla sfiducia a Bondi, annoiato dalle circostanze, si allenava alle nuove tecnologie cercando escort sul suo iPad. Peraltro entrato, avete sentito, nel paniere dell'Istat, quindi parlamentare, come si dice anche alla page. Una volta beccato però dal fotografo di un settimanale, invece di voler scomparire subito grazie al mantello che rende invisibili, il cui prototipo è stato realizzato proprio questa settimana nei laboratori di Birmingham in Inghilterra, ha detto che male c'è. In certi momenti bisogna stare in aula anche se il dibattito non è avvincente. Eh sì, anche i parlamentari si sacrificano. Dopodiché Di Cagno a Brescia, tre volte sposo, ha precisato: nessuna tentazione comunque, al di là delle digressioni telematiche, la mia era solo curiosità, non ho mai cercato la compagnia di professioniste. Del resto, dice, ho sempre avuto donne giovani. Come dire, insomma, il deputato tre volte sposo, che se passi sempre una donna più giovane non hai bisogno di rivolgerti al mercato a pagamento. Saggio il politico che, come molti altri politici maschi, io mi chiedo perché non disseminare di molti specchi il Parlamento affinché diventano coscienti almeno del loro aspetto. Dicevo che, come molti altri politici di oggi, ha il complesso dell'Adone, dell'uomo che si sente lì in politica al di là di ogni umana immaginazione, una specie di bomba sexy. Giordano Bruno Guerri, tornando coi piedi per terra, sì, tu saresti... Ma c'eravamo, mi sembra. C'eravamo coi piedi per terra, sai, quando si alza verso il cielo, verso i pianeti. Ma volevo chiederti, tu pensi, sei favorevole a eventuali elezioni anticipate o, come dice Berlusconi, il voto sarebbe un danno per il paese? Ma se si può evitarle, io le eviterei, perché sono elezioni che non si sa bene a cosa porterebbero, cioè... Non mi chiedo chi vince o chi perde, ma se porterebbero a una maggioranza stabile. Quindi vediamo di tenere in piedi questo governo, in attesa almeno di fare una nuova legge elettorale chiara e possibilmente che restituisca ai cittadini il diritto, che mi sembra indispensabile, di scegliere i propri candidati, non più affidati ai partiti come la legge e nominati attuale, eccetera. Ma dimmi una cosa, secondo te il Presidente del Consiglio, che molti danno per spacciato, a me non sembra, secondo te si dovesse... Secondo me, semplicemente perché non ha avversari né nel proprio schieramento né nell'opposizione. Sentiamo Ettore da Cremona, all'800240024. Ettore. Sì. Sì, Ettore. Sei sul pullman? Sono in macchina. Ah, bene. Io volevo entrare nel merito per quanto riguarda il problema delle anticipate. Sì. Perché credo che le istituzioni italiane, in modo particolare il Parlamento, abbia toccato proprio il fondo. E volevo dare due riferimenti agli ascoltatori. Uno riassuntivo di tutta una serie di situazioni. Recentemente hanno fatto vedere il ministro Bondi che votava per conto del ministro Sacconi, cioè faceva il pianista in Parlamento, e secondo me questo è un fatto gravissimo. Recentemente abbiamo sentito il ministro Calderoli, quello che ha fatto vedere le vignette su Maometto, sì, definite sulla maglietta, che ha causato una ribellione contro l'ambasciata italiana con rischio per gli italiani e con 11 morti a Tripoli, dire che Montezemolo doveva dimettersi perché la Ferrari aveva perso un caso. Non voglio entrare nel merito delle questioni disgustose che riguardano Berlusconi, ammesso che siano vere. Cioè, adesso, senza cadere in quella che è la diceria di tutti i giorni, che esempio danno, ma veramente le istituzioni con questi uomini hanno toccato il fondo. E poi mi ricollego a quello che diceva prima Giordano sulla questione di Berlusconi che non ha alternative. È vero. È vero? Oggi, secondo me, cioè io detesto Berlusconi più come uomo che come politico, però devo dire che la sinistra non fa niente per essere alternativa a Berlusconi, che con i suoi 75 anni è più giovane di tutti i leader dell'attuale sinistra. Quindi si facciano da parte di destra e sinistra, perché oggi agli occhi dell'opinione pubblica sono solo una sommatoria di ex democristiani ed ex comunisti. Senti, quando, però qui è qui è di ex, probabilmente ci sarà un PD serio con una sinistra e la sua sinistra. Senti Ettore, però qua c'è un po' un impasse, perché dice, allora, non voglio parlare delle cose disgustose lì del centrodestra, la sinistra è una cosa senza anima, senza un'idea, senza un programma, qui chi deve governare secondo te, Ettore? Ma, io sono a favore delle elezioni anticipate, però i partiti devono riuscire a investire su se stessi, cercando uomini nuovi, facce nuove, e dare una speranza agli italiani con persone nuove, perché evidentemente se gli elettori votano Berlusconi, almeno alle ultime elezioni è dato la maggioranza, non so cosa succederebbe, è perché evidentemente non c'è un'alternativa. Io non penso che siano così stupidi gli italiani, però diamo un'alternativa, non si può tenere Berlusconi, per cui elezioni anticipate con facce nuove. Poi volevo dire un'ultimissima cosa. Sì, che abbiamo la pausa, mi dice il nostro Paolo Corleone alla parte tecnica. Dimmi, Ettore. Sì, brevemente. Volevo dire un'altra cosa. Sì. Sempre sulle vicende attuali, mi riferisco ad esempio al voto della Commissione per le autorizzazioni a procedere con la motivazione addotta per ritornare gli atti alla Procura di Milano. Sì, ha respinto gli atti alla Procura di Milano dicendo no, quando il Presidente del Consiglio chiamò in questura che avrebbero accusato, l'imputazione sarebbe di concussione, cioè abusato, insomma, del suo ruolo, dice no, aveva chiamato convinto che quella fosse veramente la nipote di Mubarak perché non voleva creare un incidente diplomatico con Mubarak. Io dico, dire questo vuol dire prendere in giro tutti gli italiani. Dire questo vuol dire offendere l'intelligenza degli italiani. Dire questo vuol dire veramente una cosa grave, perché non ci credono neanche coloro che lo sostengono. Vediamo Ettore, vediamo cosa diranno le ascoltatrici e gli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Volevi commentare qualche opinione degli ascoltatori, Giordano? Beh, questa cosa della essere legati alla poltrona e alla sedia, secondo me ha bisogno di un piccolo chiosa. È chiaro che un politico è legato alla poltrona, perché la poltrona è un sinonimo di potere. Anche perché stare in piedi non piace a nessuno, sì. La politica punta ad avere potere in buona o in cattiva fede per trasformare la realtà del paese. E quindi è chiaro che il potere non lo si molla volentieri. Se siamo in buona fede perché si vogliono fare delle buone cose. Ora, nel caso specifico della Lega, io dubito che avrebbe facilità con una nuova alleanza a sinistra come ce l'ha a destra a realizzare il suo obiettivo supremo, il federalismo. Quindi non è tanto una questione di opportunismo, ma di opportunità. Giuseppe dalla provincia di Modena. Pronto? Pronto Giuseppe, eccoci qua. Ciao. Ciao Giuseppe. Io volevo intervenire sulla festa del 17 marzo. Quanti anni hai? 29. Ah, sentivo questa voce giovinetta. Dimmi Giuseppe. Eh? Sì, no, sentivo un tono piuttosto giovine, diciamo così, fresco. No, sì, dicono che ho la voce un po' da bambino. No, una bella voce simpatica. Prego Giuseppe. No, io volevo dire solo che, dato che prima ho sentito che lei diceva che praticamente la Mastegaglia non vuole che si perda il lavoro il 17 marzo. Mm. Che si stia a casa, dice, non stiamo a casa, festeggiamolo, ma... Sì, non stiamo a casa per il fatto della produttività, giusto? Mm. Ma io non ho capito, perché appunto io ovviamente penso che la produttività sia diversa dalla produzione, giusto? Mm. E quindi insomma non penso che un giorno in meno di lavoro vada a incidere sulla produttività, ma vada a incidere sulla produzione, no? Sì, spieghiamo questo sottile, proprio questa linea, questa piccola differenza quasi impercettibile, sì, tra produzione e produttività. Tu dici, insomma, uno può essere produttivo, cioè, lo stesso, magari... Sì, la produttività non c'entra per un giorno in meno, cioè, voglio fare un esempio, tipo, su 10 giorni che lavori, se la produttività è, mettiamo, è 5, per dire, su 10 giorni, su 9 invece è 4, cioè alla fine la produttività... Forse non mi sono spiegato, sì, però credo di no. La produttività è diversa dalla produzione, perciò non penso che un giorno in meno in un anno vada a incidere sulla produttività. Sì. Voglio dire, se una persona è veloce a lavorare in 9 giorni, sì. Quella è la produttività, no? Forse no, non mi sono spiegato. Caro, no, non tanto bene, provo a interpretarti io. Tu vuoi dire che se si lavora 5 giorni su 7, uno può produrre tantissimo, come un altro invece può stare lì un po' in panciolle, un po' sì, un po' no. Se uno è produttivo sempre, può recuperarlo quel giorno in qualche modo, ci riesce a stare all'altezza. Sì, la produttività secondo me non è non è legata al numero di giorni, cioè, capito? Sì, Carlo, è quasi chiaro. Senti, ti dispiace che le ostriche siano ormai in estinzione, anche le ostriche? Le? Ostriche? Ostriche. Ostriche addio, il degrado dei mari le mette a rischio, prima pagina di Repubblica. No, ma sinceramente a me non piace il pesce, perciò non è che... Niente Giuseppe, quindi niente paura per Giuseppe che invece preferisce fare il 17 marzo, al di là delle ostriche. Grazie Giuseppe, c'è Carmelo, sì. Carmelo da Lecce. Buongiorno. Buongiorno Carmelo. Buongiorno a lei e al suo ospite. Io vorrei tornare un attimo su quel signore che ha telefonato prima e ha detto che si sente orfano della sinistra. Beppe, se non sbaglio, sì. Se vogliamo veramente dare una svolta al nostro paese, intanto che quelli di sinistra, gli italiani che la pensano come me, dovrebbero un po' smetterla di avere questo complesso di inferiorità nei confronti della destra. Dice che è un complesso di inferiorità la sinistra nei confronti della destra. È un complesso di inferiorità perché bisogna dire che in giro che la sinistra non sa proporre un leader alternativo, che la sinistra propone programmi. Ma io dico, ma peggio di quello che ci sta offrendo soprattutto in questi ultimi mesi il governo Berlusconi, ma che cosa ci dobbiamo aspettare? Tu dici tutto il resto può essere solo meglio, tu dici Carmelo, mentre prendi il treno mi pare. Carmelo? Sì. E poi un'altra cosa. Sì. Allora, la sinistra si sente orfana di un leader, di una leadership, ma dobbiamo ancora inseguire il capo carismatico. Abbiamo visto la leadership, non c'è nessun leader che riesca a esercitare una leadership così forte. Carmelo, ho capito cosa vuoi dire, perdonami anche se c'è un gran fracasso diciamo in sottofondo e mi fai venire in mente un editoriale, accidenti, adesso siccome la gran parte delle cose le tengo a memoria, in questi giorni, se non sbaglio, sul Corriere, se non mi ricordo chi fosse, che diceva che forse uno dei mali della sinistra, nel senso che è come se avesse avuto una sua evoluzione nel post-comunismo e poi nei passaggi che ha avuto anche quella italiana, per cui è diventata più, c'è un certo democraticismo ugualitario e allora non si vogliono le gerarchie così forti che invece per esempio ci sono in centrodestra, un uomo vale per tutti e per tutto, no? Però questo porta, dice poi, anche a non avere effettivamente una figura di riferimento e a disperdersi, a non capire bene quale linea seguire. Tu sei d'accordo, Giordano Bruno Guerri? Beh, certamente la sinistra dopo aver avuto dei leader con poteri praticamente dittatoriali, almeno Togliatti, tu dici Berlinguer. Almeno fino a Berlinguer, in questo momento sta puntando su una democrazia di base, le famose primarie, eccetera, che però non mi sembra siano, l'idea è buona, ma essendo copiato su un modello americano dove il funzionamento della macchina democratica è tutt'altro, qua da noi succedono dei pasticci e dà fonte a liti piuttosto che a un sereno confronto politico. Quindi io non voglio criticare questo sistema, certamente molto meglio il gruppetto di dirigenti di vertice che si raduna per nominare un capo assoluto e indiscutibile. Ma certo la sinistra è in una fase di crescita, direi in una fase di malattia infantile, perché è rinata. Carlo da Milano, all'800240024. Qual è la tua notizia, Carlo, della settimana? Carlo, sono io? Sì. Credo, una crisi di identità, permettendo. Un attimo, in modo che si senta meglio. Sì. Io ho sentito il signor Ettore che è intervenuto prima, sì, il quale diceva non saranno mica tanto stupidi gli italiani dal rinnovare la fiducia a Berlusconi. questo vizietto di sentirsi sempre superiore agli altri non lo perderanno mai. Come? Cioè, il complesso di inferiorità o di superiorità? La sì, non si capisce. Qualcuno dice di superiorità, tu dici. Di superiorità, scusa. Di superiorità. Ecco, l'Italia ha una maggioranza di stupidi. All'opposizione ci sono quelli intelligenti che abbiamo mandato a casa. E lo faremo ancora. A noi non ci interessa la vita sessuale di Berlusconi, no? Ha vissuto e ha governato in momenti molto difficili per il mondo intero, no, tutti lo sappiamo tranne loro. Ecco. A questo punto io auguro a Berlusconi lunga vita, anche un'attività sessuale notevole. Più frenetica, dici tu. Si diverta, almeno lui si diverta. E le prossime elezioni, qualora ci saranno, vedremo, ma saremo ancora i soliti stupidi a dare fiducia. Grazie al Carlo. Al nostro Silvio. Grazie Carlo. 800 24 0024. E galoppando come promesso, eccoci qua al Deus Ex Machina di Spinoza.it. Praticamente la macchina prima ce l'aveva, poi dopo con le varie sfortune gliel'hanno tolta. Stefano Andreoli, caro. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Stefano, buongiorno. Facci con la tua solita rapidità, diciamo così, proverbiale, una fotografia, un'istantanea di questa settimana. Prego. Proverbiale, diciamo, Berlusconi propone un piano per il bene dell'Italia. Sì. Ecco, io per stare sicuri sceglierei almeno il decimo. Ecco, come piano. C'è più luce in genere, sì. Non era questo il senso, ma andiamo avanti. Berlusconi promette: darò all'economia italiana la più forte scossa mai avuta. Sì. Deve aver deciso di pagare le tasse, secondo me, perché questa promessa è notevole, ma da più parti chiaramente non credono a questo atteggiamento conciliante di Berlusconi e in molti gli chiedono un passo indietro. Ecco. Se Berlusconi desse ascolto a tutti quelli che gli chiedono un passo indietro, sparirebbe facendo il moonwalk. No, l'importante è che non ci sia un burrone dietro quando uno ti dice fai un passo indietro. Questo è l'importante. Dipende di chi si parla, comunque. Già proposte alternative a Berlusconi, stiamo aspettando che si liberi Mubarak. Non dovrebbe volerci molto, ma passiamo ad altre notizie. Passiamo ad altro, sì. La Rifondazione Comunista compierebbe in questi giorni 20 anni. Caspita, 20 anni dallo scioglimento del PC. Bella giovine, sì. 20 anni, a breve verrà diffusa un'identikit di come dovrebbe apparire adesso, perché chiaramente i comunisti... Anzi, dove sono? Ci sono un po', chi li vede più... Chi l'ha visto? A chi l'ha visto, poi chiederemo. In qualche armadio usati come spauracchio. Altra notizia... che echeggia nel mondo della letteratura, esce il primo romanzo di Fabrizio Corona. È vero, ha detto che l'ha scritto in 5 giorni, se non sbaglio. Una roba... Fabrizio Corona, esatto. Talento. Quanto chiedeva per non pubblicarlo. Era esoso e quindi l'ha fatto. E quindi hanno dovuto pubblicarlo. Esce in America anche il film su Amanda Knox. Ah, sì, è vero. In Italia hanno già fatto una telenovela, quindi non c'è nulla di nuovo. Di Perugia, sì, la povera Meredith. Pronte. Un'altra notizia, forse passata in sordina, Provenzano chiede di uscire di galera. No, l'ho vista, effettivamente. Sì, ha detto, Provenzano sta poco bene, dice... Beh, giustamente, poveretto, ne abbiamo parlato. E chiede di uscire di galera. Ora, i casi sono due. O non ha capito che presto ci sono le elezioni, o lo ha capito benissimo, e io non so... Quale delle due sia la versione? Mi spaventi di più. Chiuderei con un flash. No, sì, chiudiamo con un flash. Anche questa è nelle prime pagine di tutti i giornali. Ruby, la fantomatica Ruby, Karima, sarebbe incinta. Così sembra, sì, in procinto, oltre ad essere incinta, di sposarsi forse. Sembra che Ruby sia incinta, sì. L'ennesimo incidente sul lavoro. Bene, su questo possiamo subito censurare il nostro Stefano Andreoli. Buona continuazione, caro. Devi riprendere. Allora, dicevamo, sempre l'800240024 per le vostre telefonate, le libere opinioni sui fatti della settimana, ma vorrei chiedere a Giordano Bruno Guerri, come sempre mio opinionista oggi dalle 14 alle 15, tutta l'ora, ovviamente scrittore, giornalista, storico, il suo ultimo libro si chiama Il sangue del Sud. Allora, oggi i due principali quotidiani generalisti, Repubblica e Corriere, titolano su la prima notizia è quella sul federalismo, no? Mentre Libero e Il Giornale, tu tra l'altro collabori col Giornale, si concentrano su queste foto che sarebbero dentro i documenti dell'inchiesta sul caso Ruby, no? Allora, Il Giornale scrive a caratteri cubitali: le foto patacca di Silvio, la fabbrica del fango, caos in procura a Milano, ora l'inchiesta rischia il flop, mentre Libero titola vogliono ucciderlo con una foto, vale 1 milione l'immagine per sputtanare Silvio, verbali e intercettazioni hanno fallito, consenso intatto, gli scatti magari taroccati del premier desnudo sono l'ultima speranza, chi si aggrappa a chi cerca di abbatterlo. Che ne pensi? Beh, intanto penso che siano più importanti le notizie date da Repubblica e dal Corriere della Sera. Quanto alle foto, vediamo se ci sono o se non ci sono. È inutile parlarne prima. Però Brutti Liberati diceva sono irrilevanti, non sono quelli, sono i documenti, le intercettazioni. Appunto, se sono foto di un signore che spegne la torta di compleanno, chi se ne frega. Se fossero foto che è molto più compromettenti, magari con minorenni, certo la cosa oltretutto nega quello che ha detto il Presidente del Consiglio finora. Io veramente non mi esprimerei su ipotesi ancora da, da verificare. Dici. Allora sentiamo Silvio da Milano, proprio di Silvio. Silvio da Milano, 800 24 00 24. Silvio. Buongiorno. Buongiorno a te. La ringrazio e le faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie a te Silvio. Guardi, dimmi. Io sono, vorrei soffermarmi su un concetto. Diciamo senza entrare in merito a quello che prevede l'articolo 54 della Costituzione sull'onore e la disciplina degli appartenenti alle istituzioni, volevo fare un assioma perché sembra che ci sia un diverso modo di interpretare quello che è appunto la disciplina. Sì. Io sono un sottufficiale dei Carabinieri, noi siamo sottoposti al regolamento di disciplina militare, quindi le immagini, qual è l'impatto che può avere sulla popolazione un appartenente appunto alle forze di polizia, immagini qual è l'impatto che può avere sull'opinione pubblica un governante. Quindi mi chiedo appunto, vengono sanzionati molto rigidamente comportamenti che si reputano anche soltanto disdicevoli oppure offensivi della categoria e vengono sanzionati e puniti. Io ultimamente ho difeso un mio collega a cui non aveva commesso nessun reato, semplicemente era stato notato in ebbrezza, quindi aveva avuto un comportamento finito al di sopra delle righe, ma non, ripeto, non aveva senza causare nulla. Silvio, io non aveva fatto nessun reato. Ti ringrazio, quindi... è chiarissimo il tuo concetto, perdonami perché mi dicono di stringere Paolo Corleone dalla messa in onda, anche perché adesso abbiamo il nostro appuntamento irrinunciabile con la linguista della Sapienza di Roma, Valeria Della Valle. Cara Valeria, io vorrei sottoporti un termine molto sinteticamente che ha impaurito un po' questa settimana, è stato tirato fuori, patrimoniale, gli uni dicevano gli altri, no l'hai detto tu, no l'hai detto prima tu, no veramente l'hai detto tu. Sì, una parola e soprattutto sì, quello che c'è dietro che impaurisce molto. Allora vediamo la parola ovviamente viene dal latino patrimonium, col significato col quale si usa oggi, quindi l'insieme dei beni, dei denari appartenenti a una persona. La parola è in uso nella lingua italiana, patrimonio, fin alla fine del 200, patrimoniale, l'aggettivo lo troviamo già in boccaccio e soprattutto oggi, come dicevi tu, si parla questo aggettivo e poi è diventato per antonomasia la patrimoniale, sottintendendo l'imposta patrimoniale. Mette paura a molti e allora, per essere velocissima, tutti quelli che ne hanno paura, basterà ricordare, per temerla di meno, che all'origine di questa parola, e non sempre ci si pensa, c'è la parola pater, padre, perché naturalmente l'eredità, il patrimonio per l'appunto, si trasmetteva almeno anticamente per via paterna. Ecco, forse pensando all'origine, all'etimologia della parola, scherzo naturalmente. Si confortano, non lo so. Un po' meno di paura e di timore. Effettivamente quando si tocca il patrimonio. Grazie Valeria Della Valle, grande sintesi, straordinaria la nostra Valeria. E adesso, mentre siamo in chiusura con Giordano Bruno Guerri, Giordano, io ti volevo sottoporre due altre notizie importantissime. Una è questa, sì, di una americana, una signora americana che ha chiesto di distruggere tutti i barattoli di Nutella del mondo, perché dice: non è vero, fate vedere pubblicità con le mamme contente, i figli che si nutrono bene, invece piena di zuccheri e di grassi. Ma invece la Ferrero ha detto: no, ci sono cose tranquille dentro la Nutella. Questa ha chiesto di fare una sai, tipo contro le multinazionali delle sigarette, queste cause pazzesche, miliardarie, ecco. E poi contro anche propongo di buttare la signora in un'enorme scatola di Nutella e di chiuderla e di farla nuotare. E poi l'ultima cosa, è stato cambiato un po' il paniere dell'Istat. Io invece ritengo che sia stato fatto un errore grossolano, non è stato messo dentro il seno nuovo, perché ho letto che gli italiani questa settimana, ho letto, si indebitano per avere un seno nuovo. Come concludiamo in questi 22 secondi che restano, Giordano Bruno Guerri? Non si può farlo perché non si rispetterebbe la par condicio, le quote rosa, eccetera, eccetera. E quindi è una proposta irricevibile. Va bene, irricevibile. Fino a quando non avremo una plastica per uomini, non dico dove. Beh, qualcuno se la fa. Va bene, ma concludiamo qui. Grazie, Giordano Bruno Guerri. Sembra anche con successo. E a questo punto, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.